L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Buon pomeriggio a tutti dagli studi di Roma di Radio 24 in diretta. L'Italia vista dallo spazio, puntata 4, quella del 2 agosto. Io sono Achille Corea e oggi vi chiedo di spolverare i vostri DVD, tirare fuori dalla cantina le vostre videocassette, scorrere i titoli che avete stipati sui vostri hard disk, perché parliamo di cinema, ma prima... Posto numero 3, in attesa di assegnazione. Allora, se non lo sapete, ve lo ricordo, questa è l'Italia vista dallo spazio. Ogni giorno noi esploriamo un aspetto dell'Italia, degli italiani, dell'italianità e cerchiamo di salvare una cosa. Ieri abbiamo parlato di motori, di veicoli, ci sono state ovviamente tante proposte, figuratevi, la Ferrari, moto, qualcuno ha proposto di salvare un motoscafo, però in realtà ha vinto una scelta sentimentale, popolare. E quindi nello spazio noi lanciamo il rumore del motore della 500, della vecchia 500, perché come ci ha fatto notare qualcuno è una scelta molto femminile, piace molto alle donne, ma anche molto maschile, perché un nostro ascoltatore per esempio ci ha scritto che per lui la 500 vuol dire camporella. Quindi comincia a comporsi questo mosaico. Nella nostra astronave abbiamo Alex Zanardi in persona, che ha accettato ieri una teglia di melanzane alle parmigiane, il rumore del motore della 500, e andiamo avanti. Posto numero 3, assegnato. And the Oscar goes to... Roberto! Thank you, Sofia! I leave here the Oscar, but I want you! I want to be rocked by the waves of your beauty! Fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa, diciamo, parlare di cinema italiano per scegliere qualcosa di bello da salvare e da mandare in giro per il mondo e per lo spazio sarebbe stato scontato. Diciamo che dalla fine degli anni 40 fino agli anni 60 il cinema era un po' il nostro orgoglio, con gli Oscar a De Sica, Fellini, Sofia Loren, Anna Magnani. Era un cinema che ci invidiavano e ammiravano tutti in tutto il mondo. Poi... un po' forse ci siamo persi, oppure no, oppure nella commedia sexy degli anni 70, nei film di Verdone, nei cinepanettone, nei successi dei soliti idioti, negli Oscar a Benigni, a Mediterraneo e anche nei tanti film meno belli che escono, c'è comunque qualcosa di noi. Io oggi questo vi chiedo, di scegliere un film italiano e soprattutto di dirci perché volete mandare quel film italiano nello spazio a simbolo dell'Italia che siamo. Potete votare su Facebook, sulla nostra pagina L'Italia vista dallo spazio, se twittate mettete l'hashtag cancelletto dallo spazio, ma soprattutto 800 24 00 24. Allora, su come si fa un grande film, su come un film diventa memorabile, rimane nella memoria delle persone per anni, insomma ci sono tante teorie, tanti libri, tanti corsi, tante interviste. Una cosa che è sicura è che sicuramente per fare un grande film ci vuole un grande personaggio, un personaggio che di qualsiasi tipo sia rimanga nel cuore delle persone, e per questo noi abbiamo deciso di chiamare in questa puntata dedicata al cinema italiano da salvare un autore, narratore di personaggi che sono diventati memorabili, pensiamo anche solo a quelli di Romanzo Criminale. È con noi Giancarlo De Cataldo, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, ovviamente lei non può essere lei a dire di ho fatto personaggi memorabili, però sicuramente quando ci sono personaggi come il libanese, che nonostante noi abbiamo già visto e letto nel libro, nel film, nella serie TV di Romanzo Criminale, ancora incuriosisce le persone, i lettori, e si merita un libro come quello che lei ha pubblicato da poco, che è Io sono il libanese, vuol dire che è insomma un personaggio che ha molto da dire. Beh, sicuramente è tornato a imporsi con prepotenza, per la verità non c'è mai andato in questi anni, nel senso che io in tutte le presentazioni, gli incontri mi sentivo sempre proporre due tipi di questioni in particolare. Uno, ma secondo lei qual è il fascino di questo libanese? Due, ma secondo lei non è un errore trasformare in eroi dei cattivi? Ecco, intorno a queste due questioni ossessive. Negli ultimi 10 anni a un certo punto ho detto, vabbè, scriviamo, vediamo un po' di capire come è diventato, come il libanese è diventato il libanese. Che poi è una domanda che di solito arriva quando il personaggio c'è, cioè capire come cosa succede a quel personaggio dopo l'ultima pagina. E nel caso del libanese, vabbè, non è possibile, perché spero di non spoilerare a nessuno, ma non ci arriva il libanese all'ultima pagina. E oppure com'era prima, appunto, cioè sono queste le grandi domande che contraddistinguono, insomma, un personaggio veramente riuscito. Perché diciamo il libanese, secondo lei, e quindi arrivo alla seconda domanda, ha richiamato questa esigenza? Guardi, io devo fare una premessa. Una volta, quando frequentavo i corsi degli sceneggiatori americani, che hanno molto da insegnare ma vanno presi con le molle, mi imbattei in una frase, un'espressione di uno scrittore inglese, Somerset Maugham, famoso scrittore inglese dell'inizio del Novecento. E Somerset Maugham, nel corso di una conferenza, disse una volta: ci sono 3 ingredienti che assicurano immancabilmente il successo di un'opera d'arte. Poi fece una pausa, si tolse gli occhiali e concluse: sfortunatamente nessuno li ha mai scoperti. Allora io continuo a domandarmi le ragioni del successo e le ragioni del fascino. Posso azzardare qualcosa che ha funzionato su di me, cioè che il libanese è un personaggio che, al netto delle pulsioni criminali, cioè se è considerato soltanto un personaggio, un archetipo, esprime un'energia, una forza, una progettualità che non si vede molto in giro, e questo può essere un elemento di fascino sicuramente. Ecco, un uomo che, sia pure dal versante del male, fa qualcosa e vuole farla con forza, con determinazione. A questo punto le devo fare la nostra domanda difficile, quella che facciamo a tutti gli ospiti: se lei potesse mettere un personaggio cinematografico, quindi un film in realtà, uno solo, da salvare e conservare nella memoria del futuro in questa nostra astronave virtuale che stiamo costruendo, quale sceglierebbe? Allora facciamo così, la domanda è diabolica, perché di film italiani da salvare ce ne sarebbero 10.000. Cinema italiano è stata la nostra grande letteratura, è stata ed è la nostra grande letteratura. Se penso a Sorrentino, a Garrone o a Lucchetti, vi dico, insomma, c'è un grande cinema ancora adesso. Allora io, quando mi fanno questa domanda, rispondo secondo il periodo che sto attraversando. In questo periodo, se dovessi andare sulla famosa isola, mi porterei La dolce vita. Posso chiedere perché? Perché è uno di quei film rari e magici, nato tra l'altro da un disegno, un'intuizione di Fellini, poi sviluppato dagli immensi sceneggiatori sui quali lui poteva contare, da Sala Flaiano a Rondi, tanto per fare qualche nome, diciamo, di grandi maestri del passato. Perché è un film che attraversa tutti o la maggior parte dei generi narrativi possibili, dalla commedia all'erotico, al drammatico, al tragico, se si pensa all'episodio di Steiner, anche al politico, se si pensa alla riflessione sul cambiamento della società italiana all'indomani degli anni 60, che è raccontato nella Dolce Vita. E lo fa con una intensità narrativa e visionaria in cui si sposano la parola scritta, il dialogo, la sceneggiatura, le situazioni e l'immagine, unici al mondo. Grazie Giancarlo Di Cataldo, ricordiamo, Io sono il libanese, uscito da poco per Einaudi, grazie di essere stato con grazie noi. Grazie a voi, arrivederci. Marcello, come here. Sì, Silvia, vengo anch'io. E questa è la prima scelta del nostro primo ospite di oggi, La dolce vita. Come fai a non pensare che La dolce vita è una candidatura fortissima? Ma voi non vi fate problemi, 800 24 00 24, anche se volete dire no, a me Fellini mi fa addormentare, io voglio portare Franco e Ciccio con La spia che venne dal semifreddo. L'importante è che lo motivate. E sentiamoli un po' di ascoltatori, 800 24 00 24, Gianni della Spezia, pronto? Sì, buongiorno. Che film portiamo? Io forse sarò leggermente fuori tema, però come non possiamo ricordarci di Sergio Leone e di tutti i grandi film che ci ha regalato... Ma perché fuori tema? Se non è un grande del cinema italiano, lui chi? Sì, però i suoi film hanno spesso ambientazioni al di fuori dell'Italia e anche gli attori non erano... non erano quasi mai italiani. Ci mancherebbe che non ci contassimo Leone, che poi i western li girava in Umbria e negli Abruzzi, quindi va benissimo. Che film scegliamo? C'era una volta in America. Motivo epico, sinteticamente? Epico, bellissimo, un film sull'amicizia, la storia di una vita, meraviglioso. Va bene Gianni, grazie, segniamo questo voto. Mario da Imperia, pronto? Ciao, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Che film portiamo nello spazio a rappresentare l'Italia? Beh, Totò, Peppino e la mala femmina. Perché? Perché il dialogo tra Totò e Peppino quando scrivono la lettera è qualche cosa di epico e di esilarante al massimo. Quindi una scena che racconta l'Italia. Questo lo è... Accidenti, perché 700.000 lire, Enrico, 700.000 lire, e ci fa specie che quest'anno c'è stata una grande moria delle vacche, è qualche cosa di assurdo e di esilarante al massimo. Grazie. Quando uno sa a memoria pezzi di film, ha tutto il diritto di dire che quella cosa lo rappresentano. Corrado da Crema, sintetico, cosa portiamo? La vita è bella, un film veramente bellissimo, il più bello secondo me degli ultimi anni, e appunto l'ha dimostrato vincendo l'Oscar. Parlo un po' di italiano perché ho visto tutti i film di Bombolo. Viva Bombolo! My favorite, I watched all the great Italian actors. Bombolo, Lino Banfi, Alvaro Vitari, Lando Buzzonca. All my favorite Italians. Edwige Fenech is fantastic, Barbara Boucher is fantastic, Silvia Cosina, I'm a big fan of them. E queste che avete sentito erano le voci prima di Eli Roth e poi di Quentin Tarantino alla presentazione alla stampa del film Bastardi senza gloria, quando si sono lanciati in questa dichiarazione d'amore per Bombolo e Edwige Fenech, e dimostrata anche dei film che fanno, perché adesso quella che sentite sotto è la colonna sonora di Django, un film con Franco Nero di Sergio Corbucci del 66, e il nuovo film di Tarantino che deve ancora uscire è praticamente ispirato a quel film e si chiama anche questa volta Django. Quindi non abbiate paura di scavare, potete scegliere film da Oscar o potete scegliere film sconosciuti ai più, l'importante è che ci sia una motivazione, che mi diciate: io mando nello spazio questo film per questo motivo. Il prossimo ospite è lo scrittore Tommaso Pincio, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Tommaso Pincio, che è da poco uscito con un romanzo che si chiama Pulp Roma, e noi ci chiedevamo: fare una scelta più Pulp, più Roma o insieme? Qual è la scelta? Entrambe, perché Pulp è inteso in senso letterale, cioè come un pasticcino, un pasticciaccio, un pasticcino di via Merulana. Io abito in quella parte di Roma dove Gadda ambientò il suo famoso romanzo, però c'è anche un po' di pulp nel senso tarantiniano del termine. E qual è la scelta? La scelta del film riguarda, ho pensato a un vecchio film degli anni 60 di Elio Petri, che si intitola La decima vittima. Con Mastroianni. Con Marcello Mastroianni, che è in una versione inedita perché ha i capelli ossigenati, quindi è super biondo come Marilyn Monroe, quasi platino, e poi la giunonica Ursula Andress. È un film atipico per la cinematografia italiana, perché è un film di fantascienza. Fu prodotto da Carlo Ponti, che notoriamente ogni volta che gli parlavano di produrre un film di fantascienza dice che stava male per due giorni, però alla fine si fece convincere da Petri a fare questo film, che è dimenticato perché pochissimi, se non i cultori del cinema, se lo ricordano. Perché lo proponiamo? Qual è la simbologia, diciamo, l'importanza per tale da fargli rappresentare il cinema italiano? Innanzitutto è anticipatore di molte cose, tra cui i reality show, perché si immagina una società del futuro in cui, per tenere a bada la violenza, le persone si iscrivono a un grande club dove si è di volta in volta vittime e cacciatori, per cui ci si uccide di comune accordo. È una specie di Hunger Games 50 anni prima. Esattamente. Esattamente, e c'è anche la componente mediatica, perché naturalmente la caccia è seguita dalle televisioni e dai giornalisti, quindi insomma nel 1965 Elio Petri si immaginò un mondo che tutto sommato ha molti punti di contatto con quello che, diciamo così, conosciamo oggi. E fece un film che oggi non farebbero, probabilmente, diciamocelo, se lo proponessero, non, difficilmente. Hunger Games, in effetti, come dire, non è tanto distante, tra l'altro c'è anche la dimensione, diciamo così, gladiatoria dell'arena, perché è ambientato a Roma, e ci sono quindi dei riferimenti pure, insomma, a quel tipo di immaginario del Colosseo. Insomma, è un film molto, molto, molto curioso, anche dal punto di vista del look, dei vestiti, lo consigliamo perché secondo me pochissimi l'hanno visto. Lo consigliamo ai nostri ascoltatori, così si fanno anche l'idea se seguire Tommaso Pincio in questa scelta, La decima vittima. Grazie Tommaso, noi andiamo avanti con un po' di ascoltatori, perché ci sono diversi messaggi e di diversi tipi, devo dire. Ad esempio su Facebook comunque hanno ravanato, se possiamo usare questo termine, perché Walter propone Attila Flagello di Dio, che non è esattamente un gran film, però forse qualcosa di simbolico dell'Italia ce l'ha. Damiano propone James Stunt Operazione 1, e questo si mischiano altre scelte sulla pagina di Facebook. Vi ricordo, vi potete iscrivere cliccando mi piace a facebook.com/italiavistadallospazio. Attilio chiede Amarcord, Enrico vota per un film che tutte le volte emoziona, Il vero cinema da salvare e Nuovo cinema paradiso. Abbiamo un'attrice italiana, anche conduttrice televisiva, è Chiara Francini, pronto? Ciao a tutti! Eccoti, Chiara, stai lavorando? Eccomi! Sei sul set? No, in questo momento ancora non sono sul set, ma vi approderò a breve. Sono soltanto presa tra i momenti, prove lettura, prove costume, provo trucco, parrucco, per apparire al meglio delle mie possibilità. Ecco, e in mezzo a tutte queste prove, battutaccia, prova a dirci un film italiano da salvare. Guarda, un film italiano da salvare direi sicuramente La ragazza con la pistola, interpretato da una meravigliosa Monica Vitti, per la regia del grandissimo Monicelli, mio conterraneo, cioè io sono sua conterranea. E è un film appunto che amo in particolar modo, perché innanzitutto vi recita Monica Vitti, che è la mia attrice preferita, perché è riuscita a coniugare in maniera eccelsa sia ruoli drammatici che ruoli brillanti, e soprattutto perché nel film interpreta appunto un personaggio che a mio avviso è estremamente moderno, questa donna che all'inizio è, come si suol dire, una donna schiava zittellava, e che invece nel con l'andare del film alla fine si comprende essere pienamente padrona della propria vita, e credo insomma che sia si possa ritenere anche un bel esempio di quella che dovrebbe, che in fondo è la donna italiana moderna. Temo che stia venendo fuori un'immagine per cui il cinema italiano degli anni 60 diceva di più dell'Italia di oggi, di quello degli ultimi anni, a giudicare da alcuni consigli. Chiara, che cosa invece lasciamo fuori senza troppi rimpianti dalla nostra navicella? Guarda, lasciamo fuori tutta questa manica di raccomandati. Ma quelli noi del pubblico, che ne sappiamo? Dai, non beh, possiamo. No, invece no, il pubblico attento lo capisce immediatamente quando uno è raccomandato, perché solitamente il comune denominatore è il fatto che per la maggior parte siano dei grandissimi cani, soprattutto, e quindi insomma questa è la peculiarità fondante che un pubblico attento, tramite appunto la quale un pubblico attento sa riconoscere quelli che sono raccomandati. Quindi fuori dalla navicella i raccomandati, e spazio a chi ha radici da disgraziato ma è carico di talento. Va bene, grazie Chiara Francini, la sua scelta è La ragazza con la pistola. Ma chi sta, chi è? Ma tu chi sei? Assunta sono. Ma non, signore, io la chiatta volevo. Ah, e io te lo dicevo che non era chiesto. Errore, pigliasti. Non fui io a sbagliare, fu Ida che mi fece confondere. Si buttò dentro la vettura. Questo, c'erano anche delle grandi colonne sonore, diciamo la verità, c'erano anche delle grandi colonne sonore, però io vorrei vedere se qualcuno mi dice qualche film più nuovo, perché se no diventa un'operazione nostalgia. Claudio da Padova, benvenuto. Sì, buongiorno. Per me il film che mi porterei nello spazio è Mediterraneo, di Gabriele Salvadores. Oscar, tra l'altro. Sì, tra parentesi, perché secondo me rappresenta, è riuscito in una maniera esemplare proprio a rappresentarci come l'italianità. E queste cose non le trovi in altri film? Cosa non ti piace invece dei film che vedi ultimamente? Ma diciamo che a me è piaciuta moltissimo anche la storia, perché per quanto poco, insomma, Mediterraneo è un insieme di più storie all'interno di una storia, e condito con delle musiche eccezionali. Io onestamente poi film italiani da Mediterraneo in poi non ne ho più visti, insomma. Però bisogna andarli a vedere, altrimenti poi come giudichiamo? Io ti ripeto, io riguardo i film italiani, sono un appassionato di cinema, e devo dirti che il Mediterraneo, per esempio con i miei figli, lo guardiamo una volta ogni mese più o meno. Bene così. Grazie. Ciao, Claudio. Ciao, al telefono abbiamo anche Valentina. Benvenuta. Ciao. Valentina. Valentina è una delle fondatrici del Kino, un'associazione di Roma che organizza eventi, proiezioni, insomma si occupa anche un po' di diffondere il nuovo cinema italiano, vero? Sì, esattamente. Noi ci siamo riuniti in 55 due anni fa, ci siamo autofinanziati, abbiamo preso questo vecchio cineclub degli anni 70, l'abbiamo ristrutturato tutto, abbiamo aperto un anno e mezzo fa, e niente, adesso facciamo film in lingua originale, film italiani poco distribuiti, insomma, animazioni, un po' di tutto al Pigneto a Roma. Tu che cosa salvi del cinema italiano? Ma guarda, io mi sono sforzata di scegliere un film uscito negli ultimi 6 mesi, perché tra l'altro bellissimi film che hanno scelto anche gli altri, però ho pensato agli ultimi film che ho visto e io salverei Scialla di Francesco Bruni, perché mi ha divertito tantissimo ed è un film che racconta, in realtà è un film di una generazione, anzi di due generazioni secondo me, perché racconta sia i diciottenni, sedicenni, ventenni di oggi e sia i cinquantenni che si trovano ad avere a che fare con questi ragazzini molto diversi anche da noi. Io ho 30 anni, 35 anni e insomma è un film che racconta un po' due generazioni che stanno intorno a noi. Proviamo a salvare Scialla, proviamo a salvare anche un film nuovo. So che andate anche voi nello spazio, al Kino. Esatto, sì, perché al Kino stiamo organizzando un party per domenica 5 agosto, in occasione dell'ammartaggio della sonda Curiosity su Marte, che sarà il 6 mattina, alle 7.31, ci sarà la notte bianca al Kino Village. Vabbè, insomma, stiamo facendo tendenza, esatto. Diciamo la verità. Vanno tutti nello spazio. Grazie Valentina per aver salvato. Ciao. Un film nuovo. Grazie. Beh, però anche i film italiani nuovi hanno delle colonne sonore che acchiappano. Io ho provato a vedere Scialla e poi per i 7 giorni successivi piangeravo per casa canticchiando Scialla. Io faccio un po' di citazioni al volo perché siamo in chiusura. Zora la vampira, mi dicono addirittura qua via SMS i nostri ascoltatori. Brancaleone alle crociate. Io sto con gli ippopotami, vale? Vale tutto se lo giustificate. Quindi continuate a scriverci su Facebook, nella pagina Italia Vista dallo Spazio o via mail. Io ringrazio Alessandra Cappini e Antonella Migliaccio. Noi torniamo domani. Voi continuate a proporci film da salvare. Posto numero 4. In attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.